A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Qualcuno ha provato anche a darsi fuoco, qualche altro ha bruciato la toga o iniziato lo sciopero della fame. In più di un caso è dovuta intervenire la polizia per portare via i fascicoli. C'è chi obietta problemi di collegamento e chi di criminalità, chi rivendica la propria efficienza e chi reclama la propria storia. Da Bassano del Grappa a Nicosia, da Pinerolo a Rossano, passando per Ischia e Sulmona, attraversano una parte e l'altra del paese le proteste contro la riforma della geografia giudiziaria che con la soppressione di 947 uffici ridisegna una mappa vecchia di 150 anni. Ad una settimana esatta dalla sua entrata in vigore, in realtà i numeri del Ministero della Giustizia dicono che solo nel 6% delle sedi ci sono problemi e comunque ora a Via Arenula, come sentiremo nella seconda parte dallo stesso Guardasigilli, ci sarà una commissione a seguire l'andamento e un anno di tempo per eventuali correzioni. Dietro i numeri però ci sono poi le storie e ci sono le diverse realtà e i molteplici problemi intorno ad un punto nevralgico della struttura pubblica quale l'amministrazione della giustizia. Ed è allora un viaggio tra i tribunali soppressi questa puntata di A ciascuno il suo. L'attenzione è altissima, la gente non si farà portare via il tribunale. Ci hanno provato fino alla fine e ancora non si sono rassegnati. La battaglia in difesa del proprio tribunale, la gente di Nicosia, in provincia di Enna, è pronta a portarla ancora avanti, anche ora che la riforma delle circoscrizioni è entrata in vigore. Per mesi, in questo lembo interno della Sicilia, amministratori e avvocati insieme agli abitanti hanno bloccato strade e treni, minacciato lanci nel vuoto e protestato per strada in difesa di quello che considerano l'unico presidio di legalità in una terra che già lotta contro disoccupazione e abbandono, dove sono poco più che mulattiere, come ha ricordato il vescovo in una lettera, le strade, e dove la scomparsa del tribunale viene vissuta come un segno ulteriore di morte, racconta il sindaco Sergio Malfitano. Un territorio fortemente depresso e fortemente penalizzato da carenze di ogni tipo, ma soprattutto da carenze infrastrutturali. Questo comporta certamente una difficoltà enorme di accesso da parte dei cittadini alla giustizia. Ai no del Ministero contrappongono l'idea del Tribunale dei Nebrodi, un nuovo polo, fusione di due di quelli invece cancellati, come sintetizza l'avvocato Pier Giacomo Lavia, capofila delle manifestazioni. In questa ampia zona della Sicilia noi abbiamo proposto una fusione tra i tribunali di Mistretta e Nicosia, quindi una delibera fatta dei 19 comuni, 100.000 abitanti, per fare un unico tribunale. È questa la strada, quella propositiva che anche ad altre latitudini amministratori locali e legali hanno esplorato per cercare, ma invano, di evitare la chiusura del proprio tribunale. In Veneto non sono tanto i collegamenti a preoccupare per l'abolizione della sede di Bassano del Grappa, quanto piuttosto i timori sugli effetti della riorganizzazione complessiva della giustizia, i cui tempi lenti, si sa, possono scoraggiare gli investimenti delle aziende. È la paura vera del produttivo Veneto che con la soppressione del Tribunale di Bassano, come di Castelfranco e Cittadella, si creino ingorghi e lentezze con grave danno per l'economia, oltre alla beffa di un palazzo di giustizia appena costruito ma mai utilizzato. Al sindaco Stefano Cimatti più volte i concittadini hanno fatto arrivare pressioni per organizzare proteste più eclatanti. La nostra non è una battaglia per Bassano del Grappa, è una battaglia per il Veneto. Si calcola che solo il fatto di togliere il tribunale vuol dire perdere probabilmente 300-400 posti di lavoro nell'area. La causa più semplice che esiste, che è la separazione consensuale, da noi veniva fissata in 5-7 giorni. Se lei va a Venezia, a Vicenza oggi, gliela fissano a gennaio-febbraio. Noi chiudevamo i procedimenti di primo grado in civile in meno di 2 anni, a Vicenza sono a 6 anni, quindi essere accorpati a Vicenza vuol dire perdere un'efficienza che noi avevamo, era forse il tribunale più efficiente del Veneto. A Bassano sono stati spesi 12 milioni per un fabbricato nuovo, quindi muore prima di nascere. Inaugurato dunque ma mai usato, il tribunale di Bassano del Grappa scompare prima che il suo nuovo edificio entri in funzione, mandando in fumo i 12 milioni spesi per costruirlo e una macchina giudiziaria che l'aveva reso uno dei più efficienti della regione, a detta del primo cittadino, molto scettico pure sulla proroga che loro, come altri 7 tribunali dei 30 destinati a sparire, hanno ricevuto dal ministero. Tra coloro che sono sospesi si sentono pure a Vigevano, in provincia di Pavia, uno dei tribunali più grandi a scomparire insieme a Sanremo. La proroga c'è, ma pure l'incertezza, davanti a certe circolari che ad esempio invitano gli avvocati a limitare le notifiche solo a quelle urgenti fino al 30 settembre. Come recita la comunicazione che rigira tra le mani il segretario del foro, Elena Callegari. Scatoloni in ogni angolo, manifesti a lutto e striscioni sulla facciata. È il silenzio ad accoglierti all'ingresso del tribunale di Vigevano, morto per ora solo a metà, con gli uffici dei GIP già trasferiti a Pavia e il dibattimento arretrato da smaltire invece ancora qui. E tutto a danno dei cittadini, accusa il presidente dell'Ordine degli Avvocati Giuseppe Madeo, con parole che sembrano preannunciare quell'intenzione dell'Associazione Nazionale degli Avvocati di una class action contro la riforma. Con questi accorpamenti purtroppo la giustizia in provincia di Pavia sarà morta per almeno 5 anni. Prima che va a regime la copertura dei posti di magistrato con la copertura del personale amministrativo, con l'assetto strutturale che non c'è, ci vorranno almeno 5 anni. Tra gli 8 per ora sospesi c'è anche il tribunale di Pinerolo, in Piemonte, dove i 50 sindaci della zona hanno seguito in piazza l'informativa del guardasigilli al Senato il giorno prima dell'entrata in vigore della riforma. Confluiranno su Torino, che così avrà competenza su 1.600.000 abitanti, riporta il foro della zona, contrapponendo i dati di quella che era una sede virtuosa, dice il presidente Alfredo Merlo. Era un tribunale che costava 270.000 euro all'anno e ne faceva incassare allo Stato circa 2 milioni. Uno degli obiettivi era decongestionare i tribunali metropolitani. Qui invece il tribunale di Torino viene ad essere aggravato da 220.000 utenti che prima non aveva. Ma è soprattutto al sud che la situazione è più incandescente e le proteste più accese. A Rossano, in Calabria, i fascicoli alla fine sono stati presi con un blitz notturno. È dovuta intervenire la polizia, infatti, per trasferire gli atti dall'ormai ex tribunale cittadino a quello di Castrovillari, che lo accorpa. I manifestanti stavano bloccando il trasloco dopo l'ennesima giornata di cortei e presidi, andati avanti anche dopo aver ottenuto una proroga sia per il civile che per il penale. Uno spiraglio che fa ben sperare il sindaco Giuseppe Antoniotti. Rossano è tra i tribunali che ha avuto la proroga di 2 anni, invece di avere la proroga solo per la sezione civile ha avuto la proroga anche per il penale. Siamo fiduciosi che il ministro possa adottare il decreto correttivo. Potrebbe eventualmente salvare i 7 tribunali, quelli che sono a rischio criminalità, tra cui c'è anche il tribunale di Rossano. Come i colleghi calabresi, anche più su, in Campania, a Sala Consilina, in provincia di Salerno, l'entrata in vigore della riforma non fa affatto desistere gli abitanti di questo comune, come quelli del circondario, che hanno dichiarato permanente il presidio davanti al tribunale. I piccoli centri hanno diritto di esistere? Chiede furioso il primo cittadino Gaetano Ferrari, che contesta i benefici economici dei tagli e il fatto di essere accorpati ad una sede di un'altra regione, Lago Negro, in Basilicata. Ci sarà un presidio permanente e continueremo questo stato d'agitazione fino a quando uno Stato che dovrebbe difendere i cittadini non interverrà in massa, come già è successo in un'altra manifestazione, e si metterà contro dei cittadini indifesi e quant'altro. Tutti difenderemo il nostro tribunale, perché per noi vuol dire futuro, per noi vuol dire vita. Una situazione come quella attuale, dove già è difficile andare avanti proprio per le difficoltà economiche che ci stanno, hanno diritto i piccoli centri di sopravvivere, hanno diritto di uno Stato presente. La campagna fa i conti con i tagli, ma pure con la difficile organizzazione per la nascita ad Aversa del Tribunale di Napoli Nord, dove confluiscono una serie di ex sedi distaccate di una delle aree a più alta densità umana e criminale. Ma sono ben 145 i posti scoperti e non si possono garantire i processi, denunciano da Napoli. Tensioni locali, dunque, paura di perdere posti di lavoro, problemi di spazio ma anche di trasporto sono dunque all'origine delle varie proteste contro la riforma avviata dal 2011 e messa in atto il 13 settembre 2013. La più importante riforma degli ultimi anni nel momento più difficile degli ultimi tempi e nel pieno del rinnovato scontro tra politica e giustizia che fa camminare il governo sempre come sull'orlo di un precipizio che è stata ridisegnata l'intera geografia giudiziaria con la soppressione di 947 uffici tra cui 30 tribunali e 30 procure col trasferimento di 7.300 dipendenti e 2.700 magistrati. Una riforma storica l'hanno definita perché ha cambiato una mappa vecchia di 150 anni. Una riforma, come abbiamo sentito nella prima parte di A Ciascuno il Suo, che ha trovato però non poche ostilità nelle varie comunità, anche se i dati del Ministero della Giustizia dicono che solo nel 6% dei casi ci sono stati dei problemi. A Via Renola comunque è stata istituita anche una commissione per monitorarne l'andamento. Abbiamo un anno per eventuali correzioni, è il messaggio che da questa rubrica, da A Ciascuno il Suo, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri manda a tutti quelli che protestano. E lo fa con questa intervista in cui torna pure sul clima politico attuale. Parlare di campanilismo sarebbe riduttivo e anche offensivo, perché chi sta sul territorio rappresenta una serie di interessi, di problemi. La presenza di un tribunale comporta lavoro, comporta attività, è quasi come una piccola azienda che vive sul territorio e quindi dà spazio a tante cose importanti per quel territorio. Questo è il primo aspetto. Ne pensi anche soltanto tutti quanti che abitano al Palazzo di Giustizia, dal Palazzo di Giustizia traggono un motivo di sopravvivenza o perlomeno di florità delle loro vicende. Poi c'è la difficoltà degli impiegati o dei magistrati che devono andare a 10, 20, 50 km di distanza. I problemi sono tanti e alcuni sono anche molto veri. Anche gli stessi avvocati, lei pensa per un avvocato, una cosa avere il tribunale accanto a casa, una cosa averlo a 50 km o 35 km. Certo. Quindi questi sono dati oggettivi. Però c'è l'interesse superiore che naturalmente non può essere tralasciato, anche perché a questi problemi si può rispondere in qualche maniera, ci si può adattare a nuove realtà, però il risultato che noi vogliamo ottenere è un risultato di gran lunga superiore a tutte le situazioni di disagio che si sono create. Noi creeremo una giustizia più efficiente perché rendendola più coesa e più strutturata dà risposte migliori in tempi più rapidi. Risparmiamo dei soldi. Avete più o meno una stima, Ministro, di quanto? Alla fine di tutto si calcolano circa 80 milioni, alla fine di tutto proprio. Poi c'è proprio una questione di efficienza. Noi abbiamo l'impossibilità di assumere le persone ormai da anni, no? Le sa che da anni la pubblica amministrazione non può assumere. Abbiamo sempre meno dipendenti e un accorpamento consente con i dipendenti in meno che abbiamo di rendere efficiente comunque il sistema. Quindi diciamo che non c'era via d'uscita, anche perché erano proliferati molti, molti tribunali, molti più di quanto fosse necessario sul territorio. Si è visto che alcuni piccoli tribunali erano assolutamente proprio non produttivi sotto di nessun beneficio. Quindi ci rendiamo conto del disagio, ci rendiamo conto della fatica, ci rendiamo conto delle difficoltà, anche difficoltà pratiche, spostare faldoni, ritrovarli, riaprire, ritrovare le carte. Tutto questo è tutto considerato e tutto tenuto nella giusta considerazione, però c'è un interesse superiore del paese che va guardato, bisogna avere pazienza, bisognerà curare gli errori, provvedere se ci sono degli errori a porre rimedio e poi vedremo alla fine comunque per il paese sarà un vantaggio. Passaggio più delicato è adesso quello di seguire l'andamento della riforma passo passo, perché tutte quelle cose che non vanno bene possono trovare comunque una risposta. Ministro, lei ha istituito anche una commissione al Ministero, sì, formata, sì, da magistrati, avvocati e anche rappresentanti degli enti locali e comuni, esatto. Per seguire l'andamento di questa riforma. Ma l'istituzione di questa commissione significa anche la possibilità di rivedere delle decisioni, comprese delle soppressioni in futuro? La legge ci dà un anno di tempo per i decreti correttivi. I decreti correttivi possono prevedere alcuni ripensamenti o alcuni ridimensionamenti di situazioni, ma questo non significa tornare indietro, perché ci vuole una legge per far di nuovo un nuovo tribunale. Però si possono porre dei correttivi per rendere più efficiente il sistema, magari minore sprechi su alcune condizioni legate agli esami, perché per esempio nel 6% che ha difficoltà, abbiamo per esempio 10 sedi che hanno problemi di spazio e quelli dobbiamo risolverli e vedere come risolverli, non aumentando i costi ma se necessario diminuendoli. Poi abbiamo delle sedi che invece ci sono problemi di ostruzionismo fisico da parte di associazioni, vari insomma. e là è diverso, ma ci sono proprio delle questioni pratiche che possiamo risolvere subito e altre sulle quali la Commissione farà le sue considerazioni e poi vedremo i rimedi da porre, ma comunque la riforma è partita ed è una riforma importante, è stato difficile farla partire, sarà complesso seguirne l'andamento, però se già un 94% in qualche modo risponde che tutto funziona e che si è allineato, secondo me è già un bel risultato. Adesso cureremo quel 6% e vedremo che il 94% poi non abbia bisogno di qualche altra cosa. Ecco, quindi decreti correttivi, ma nessuna, diciamo, possibilità anche per le realtà dove le proteste sono più accese, che la decisione, ad esempio, di sopprimere il tribunale anche per quelli che hanno avuto questi 2 anni di proroga possa invece tramutarsi in un passo indietro. Noi abbiamo un anno per monitorare la situazione. In quest'anno valuteremo tutto quello che c'è da valutare proprio con la massima serietà e con la massima serenità. Quindi un messaggio anche distensivo, diciamo, per le realtà che sono ancora molto così ferventi su questo fronte. Certo. Ecco, Ministro, lei come giudica la presenza anche di amministratori locali, molti? Ma vede, l'amministratore locale difende il suo territorio. E quindi a volte lo fa in un modo, a volte lo fa andando un po' oltre quelli che sono i suoi compiti, però se lo fa negli ambiti della legge nulla da dire, cioè è chiaro che il sindaco di una città difende la sua città, questo mi sembra giusto, se poi per difenderla mi fa il blocco stradale, beh, allora il discorso è diverso, ma lì travalica il dissenso con atti che sono contrari alle norme, ma insomma che un sindaco dissente e manifesti a me sembra assolutamente corretto. Tra le obiezioni che alcuni sollevano è anche il fatto che siano stati utilizzati dei criteri, diciamo, oggettivi uguali, insomma, per tutto il paese, pur essendoci delle realtà anche effettivamente molto diverse, come, non so, Bigevano o Rossano o Nicosia. Forse sì, beh, guardi, in realtà i criteri sono stati oggettivi, tutti uguali per tutti, ma tenga presente che per il sud, e quindi parliamo delle zone dove la criminalità organizzata è presente, sono state fatte molte eccezioni, cioè in Calabria sono aperti tutti i tribunali, escluso Rossano, mentre invece se avessimo seguito i criteri oggettivi ne sarebbero stati aperti molto meno, e altrettanto in Sicilia, voglio dire, quindi non è che il problema della criminalità organizzata non sia stato tenuto in considerazione. Ci sono anche quelle delle infrastrutture diverse, diciamo, tra una sì, regione, certo, e l'altra. Cioè ci sono le difficoltà dei posti di montagna, di infrastrutture, eccetera, però bisognava avere comunque delle regole, perché se non segui le regole diventa un discorso a quel punto di campanile, noi dobbiamo seguire le regole. E comunque i fenomeni di criminalità organizzata sono stati tutti in grandissima considerazione. Ci sono dei tribunali che non dovevano essere aperti e sono stati mantenuti aperti proprio in considerazione della peculiarità del territorio. Questa è una riforma importantissima perché ridisegna, lo dicevamo, la geografia giudiziaria dopo 150 anni, una riforma appunto molto importante, entrata in vigore in uno dei momenti di più grande precarietà di questo esecutivo. Come danneggia questo anche clima politico l'amministrazione della giustizia? Il clima politico fa la sua parte, noi lavoriamo tranquillamente con impegno ogni giorno senza problemi, non ne siamo turbati, ecco. Non mette a rischio anche future riforme in corso questa incertezza? No, assolutamente, anzi stiamo mettendo in cantiere altri, no, assolutamente, fino all'ultimo giorno, che non sappiamo quale sarà, che potrebbe essere domani, come potrebbe essere fra un anno, fra 6 mesi, fra 3 mesi, questo non lo so. Ma io sia tranquilla che fino all'ultimo giorno lo vivrò come se fosse il primo. Quindi lei non è preoccupata per la tenuta del governo, mi sembra di capire. No, non mi appartiene, io devo soltanto lavorare. L'ultima cosa che le chiedo, Ministro, è questa. Il Capo dello Stato ha rivolto un nuovo appello a spegnere nell'interesse del Paese il conflitto tra politica e giustizia. Anche il Premier aveva voluto ricordare che in Italia non ci sono persecuzioni. Questo ovviamente è un riferimento dopo gli attacchi dell'ex Premier Silvio Berlusconi, lei che è appunto al vertice del Ministero della Giustizia, che è crocevia di questo dibattito, conflitto, per dirla con le parole del Capo dello Stato. Guarda, io condivido tutto quello che ha detto il Capo dello Stato e sono assolutamente d'accordo su tutta la linea, ma soprattutto sono d'accordo sul fatto che questo Paese ha bisogno di pacificazione. Noi abbiamo bisogno di ritrovare un clima sereno perché i problemi che vanno affrontati sono tanti, sono gravosissimi, molto più gravi di quanto non si possa immaginare, perché il momento è difficile. Quando si trova di fronte a problemi grossi, più c'è un clima di serenità e di voglia di lavorare, più si lavora tutti insieme, più problemi si risolvono. Sembra quasi un'utopia in Italia parlare di serenità tra politica e giustizia. L'Italia è stata capace di trovarsi d'accordo in momenti difficilissimi. Lei ricordi quello che ha fatto l'Italia subito dopo la caduta del fascismo, nel momento in cui gli animi erano divisi, lacerati, a un certo punto sulle cose importanti sono riusciti a parlarsi dagli opposti estremismi e hanno trovato delle vie d'intesa. È stata capace di tenere testa al terrorismo, è stata capace di alzare la testa in momenti gravi. Io sono sicuro che lo saprà fare anche adesso. Certo, il clima sereno non può che essere un mezzo per poterlo fare meglio. E voi cosa ne pensate? Quando sarà possibile la pacificazione tra politica e giustizia? Scrivetelo, se vi va, sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter. Il mio account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it nella cartella programmi. Ciao a tutti, a presto!